HG che stai modulando. HG, da Sierra a Sierra qua è salutone. Sento Christian da HG che si occupi la stazione di parchetto. Cambio. Yeah. Il filo l'ho passato e che devo saldare il filo. 1000, però non mi arriva il filo della 220 per il mio saldatore. Ah, ho capito. Pensavo che state qua siete il filo del PL, dell'antenna, capito? No, il filo dell'antenna fa che basta e avanza, ce n'è una puntata. E che non mi arriva il filo delle saldatore giù in strada, perché qui è dove ho capito io la voglia a cercare un posteggio. E ci sarebbe voluto un saldatore come ne ho visto uno stamattina, e a gambe, cambio. Ah, positivo. Io c'ho pure vite, sono lo stesso. Mannaggia, ci vorrebbe per quelli portati, diciamo. Cava, ma che dai. E comunque non fa niente, anche perché io credevo fosse il lavoro più duro e passare il filo. Però appunto, devo essere sincero, due colpi di culo che hanno trovato e due pitture lì mi sono aiutato con del fil di ferro per tirarlo e ci ho messo 10 minuti e ho fatto tutto. Io credevo di montare mezza macchina e invece niente. Sono contento, hai trovato magari il punto giusto, l'hai tirato e già va bene così, dai Giuseppe, meglio così. E capa, qualche capa, sempre a noi bovarati, capa, vi ringrazi, e qualche volta capa una cosa positiva anche a noi. Beh Giuseppe, ci mancherebbe altro. Se hai problemi di PL dimmelo che ci sono qua, non ti mettere problemi. Vai tranquillo Falchetto, so che tu sei un amico con me con la maiuscola. E niente, ricambio anch'io, ricordati per qualsiasi problema se si possa arrivare e qui sul 21 non hai che da chiedere Falchetto, nella maniera più assoluta. Non c'è problema, te l'ho detto, tu vai alla grande e fregatene, non c'è problema da questa parte, capito? Andrà bene me da qualche, e non c'è problema, quando si sta con amici, guarda, io credo che anche le montagne si possono cavalcare senza nessun problema. Esatto, confermo le tue parole sacre e sante. Guarda che io ti posso dire che uscivo, e te lo può confermare, già ne so più tu, uscivo con Tantinino, capito? Uscivo con Tantinino e non uscivo tanto bene. Poi c'è stato l'amico lì, Pierpaolo Velauno, mi ha dato l'antennino, ho messo l'antennino sul tetto, e ti posso dire che stavo uscendo bene. Poi siccome tu lo sai, mio frappacco cosa consiste, no? Sempre blocchetti, volantini e compagnia bella, e mi sono stufato la verità. Allora mi sono messo in contatto con mio cognato, lì a Civitavecchia, e mi ha mandato un bel barchetto, l'87 alla 87. Beh, caspita, ho messo quello e guarda, non ce n'è per nessuno. E piano piano si fanno le cose, cioè, però, se si può dare una mano all'amico, ben volentieri, alla grande, guarda. È capace positivo Falchetto, anche perché ti posso confermare che qui dentro casa mia stai arrivando come una bomboletta. Anche tu contraccambiato, dai, arrivi abbastanza alla grande, senza problemi. E quando ci sono problemi non mi ritengo di dirtelo, senza offesa. Se hai problemi all'apparato ti dico, guarda, stai scendo male, va bene, Per il momento tutto a roger da questa parte. Falchetto, anda a Penemela. Io se non sbaglio ho sentito un mezzo ingresso di qualcuno, e se vuoi entrare sul 21 avanti. Benissimo, se fate un po' di bianco, se non vengo lì mi aspetto le antenne a tutti e due. Buonasera anche a lei. Buonasera Gigetto Vulcano, in compagnia di Giuseppe. Stavo provando a attaccare a provarlo sul tutto volge da questa parte, se conferma anche Giuseppe, andiamo avanti Giuseppe. Kappa, Pache, se sta parlando con il microfono in questione, qui sta arrivando a bomba, Radio 5, 10 Lone, dice. Senti, l'ho comprato ieri per Falchetto lì a Marrucchio, capito? 12,50 la tavola. Andà bene meda, la famuile è un punto di riferimento per noi, dice. Volenti, volai. Dico che ho provato su questo apparato e... questo è quello che lo prendo in cambio io e... fatelo sto provando, se non mi io me lo prendo anche un altro per me, dai. Andà bene, ascolta, ma Gigi, scusami l'invasione più che altro, ma la famiglia a rientro su Sassari, non andando a Cagliari? A rientro su Sassari, capito? Rientro su Sassari. Capa di Roger, diciamo che è più fornito, anche se io non riesco a capire Tamuile uno e Tamuile l'altro, io l'altro giorno scendendo a Cagliari mi serviva del materiale e niente da fare, ho dovuto aspettare il rientro da Macchiareto per potermi rifornire i Gigi. Dipende che materiale, di che cosa devo rifornire, capito? Dipende di che materiale. Ma guarda, la famiglia al rientro su Sassari ha di tutto e di più. E là qualche cappellino, qualche lampadina, qualche sciarpa, qualche cuscino, Porta Cagliari, Curva Nord e tutte cose. E niente, al rientro su Sassari ti puoi fermare, ti fai la chiacchierata, puoi anche scegliere perché c'è varietà di cose lì, Sì, ma tu devi dire solo che sei ricco mio e poi non ci sono problemi, se qualsiasi cosa mi fai ti fa lo scotto, capito? Se sempre se sei amico mio, capito? Tutto, molta cosa ero fatta portare io lì, capito? Iniziando dalle altezze, iniziando dalle palacchine e via dicendo, sono stato io a fargli arrivare lì a convincere a Lucca, capito? Guarda che li trovi anche la 5.000 turbo, che non esiste mai in Sardegna, l'ho fatta arrivare io lì. Da 5 anni a questa parte, capito? Avanti, si vuole entrare sul 21, hai quasi sovramodulato Gigi, avanti. Adesso non entra. E avanti l'amico che stava entrando. No Gigi, non vuole entrare, dai. E comunque è buono che anche noi qui in Sardegna ci organizziamo un attimino, perché su in qualsiasi autogrill ti fai, diciamo, a poco, volgarmente detto in sardo, stavo guardando un po' del computer, qualche filmattino dei raduni che fanno GP, capito? Stavo guardando quello di Sicilia e ce ne sono, guarda, adesso mi sono seduto, stavo guardando, non ho guardato quelle ali, capito? Perché c'è un circuito scappato dove sono i condensatori di filtro e sono appena sei quasi finale, qui ci lo metti un dito e a parte cosa all'altra e cosa dato devo cercare di saltare e c'è la piazza e gioca a farle la vita. E tu ce l'hai finito, state lì e ci avevano lasciati giù. Lo devo dire io. E dove in calendario? C'è stato da letto. Ora vieni. Ciao, Mister.